Destra 31, per Allegheny triplo 4, virata destra 30 gradi. Chiama la 45esima ripetizione e senti che cosa diavolo stanno sperimentando. Questo è il film che ci ha stupito, che ci ha incuriosito, che ci ha abbagliato. Il film che ci ha ricordato che non siamo soli. Questa è la via che ci ha portato ai più estremi confini dell'immaginazione di un geniale regista. La via che 100 milioni di spettatori hanno percorso e vorranno percorrere ancora. La via che altri milioni di persone percorreranno per la prima volta. Ma ora questa via ci porterà anche più lontano. L'edizione speciale di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Il regista Steven Spielberg ha girato altre sequenze che danno maggiore ampiezza al già imponente quadro della prima edizione del film. Ora Richard Dreyfuss, nel ruolo di Roy Neary, insieme al pubblico di tutto il mondo, vive la straordinaria esperienza di trovarsi all'interno. Quando vedemmo Incontri ravvicinati del terzo tipo, desiderammo sapere di più. Ebbene, questo è di più. Benvenute e benvenuti. Noi siamo Dicotomico e, se siamo Dicotomico, una buona parte di colpa è da attribuire ad un altro nome collettivo, che è quello di Vooming. Li abbiamo adulati talmente tante volte che è superfluo continuare a farlo. Anche dire che UFO 78 è un romanzo bellissimo sembra superfluo, ma lo facciamo lo stesso. L'abbiamo divorato in un attimo ed è stato durissimo uscire da quel mondo e tornare qui e ora, nel 2022, in Italia. Invece, a marzo del 1978, nelle sale italiane c'era Incontri ravvicinati del terzo tipo e furono in tanti ad essere rapiti dalla visione. Una visione che certamente contribuì a rendere quell'anno il più ricco di avvistamenti di UFO nei cieli dello stivale. Nel tripudio delle mille luci dell'immensa astronave madre, gli umani cercavano disperatamente di soddisfare la mistica voglia di infinito, il desiderio struggente dell'immortalità. Incontri ravvicinati è forse soltanto una favola, affascinante, ma pur sempre una favola, che anche dopo 4 decenni riesce a rapire anche lo spettatore più smaliziato e a mettere in scena la volontà irrefrenabile di credere. E quando Roy Neary, un padre irresponsabile e bamboccione, sale sull'astronave, siamo beati spettatori di un altro rapimento, anche se realizzato con gentilezza e tanti, tanti buoni sentimenti. Rapimento quindi come unione estatica con la visione del film. Rapimento, abduction, anche quello messo in scena sullo schermo. Ma fuori dal cinema, a marzo del 78, ne avviene un altro di rapimento. Abbiamo il piacere di parlarne con Vooming, il comando che ha compiuto ancora l'ennesimo rapimento, il nostro, realizzato con UFO 78. La parola ai rapitori. UFO 78 si può in effetti definire un romanzo di rapimenti. C'è quello di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, ma in fondo anche i brigatisti in quei giorni si dichiaravano prigionieri politici e dunque rapiti dallo Stato, dalla giustizia borghese, mentre era in corso il processo di Torino che vedeva come principale imputato Renato Curcio. C'è un intero paese, l'Italia, che è rapito dall'emergenza terrorismo, dalle leggi speciali, e c'è una giovane donna, figlia di un ricco industriale milanese, che l'accusa di essersi lasciata plagiare da una santona, da una guida spirituale, consentendole di impadronirsi di una villa di famiglia. C'è l'eroina, quella sostanza rapace che cattura chi ne diventa dipendente. C'è un personaggio ispirato a Pier Fortunato Zanfretta, che proprio nel 78 diventò famoso sui giornali e in TV raccontando di essere stato rapito dagli alieni. E ci sono gli ufologi, rapiti, cioè affascinati, dalle luci in cielo, dalle testimonianze di avvistamenti di oggetti volanti e dalla loro identificazione. È significativo in italiano quest'uso metaforico del passivo del verbo rapire per descrivere chi è incantato da un luogo, da un'idea, da una persona. È significativo perché rapire ha un'accezione negativa, che in questo modo si trasferisce anche all'atto di restare incantati e dunque imprigionati. In questa cornice metaforica sarebbe invece la ragione, la forza liberante che viene ad allargare le sbarre della gabbia. Ebbene, nel romanzo noi cerchiamo di contestare proprio questa prospettiva, di evidenziare che anche la razionalità ci può inretire, vincolare, mentre la fantasia, il sogno, le visioni, la capacità di cogliere segnali e coincidenze può essere liberatoria e illuminare verità alle quali la ragione da sola non sarebbe arrivata. Oh, how is it that I could come out to here and be still floating and never hit bottom and keep falling through, just relaxed and paying attention. All my two-dimensional boundaries were gone, I had lost to them badly. I saw that world crumble and thought I was dead, but I found my senses still working. And as I continued to drop through the hole, I found all... Gli avvistamenti di Aldo Moro si moltiplicano durante la sua prigionia. Gli italiani lo vedono per strada, lo vedono alla guida di auto, in giro per la città. Io e il mio socio abbiamo opinioni opposte. Secondo me si tratta di volontà di credere al miracolo, alla sua liberazione e alla salvezza, semplicemente. Invece Massimo crede che gli italiani lo vedano come già fantasma, dandolo quindi per morto, spacciato, già quindi idealizzato come martire. Qual è la visione giusta, se esiste? Occupandosi delle due lettere rese note dalle Brigate Rosse, l'Osservatore Romano scrive che l'onorevole Moro è costretto a dire cose che non pensa o a pensare cose che, senza la violenta pressione di un processo arbitrario, Moro non avrebbe mai ospitato nel suo spirito. Tornano alla mente, prosegue l'Osservatore Romano, i disumani processi stalinisti contro i leader che non piace. Just relax and pay attention. L'intera nazione a prendere coscienza dei pericoli che la sovrastano. Aldo Moro era prima di tutto un nome che le italiane e gli italiani sentivano pronunciare da 30 anni quasi ogni giorno. Aldo Moro è un uomo di potere, un politico di lungo corso, uno dei personaggi simbolo della DC e di quella che viene ricordata come la partitocrazia. Però nei giorni del suo sequestro, e attenzione solo in quei giorni, fino al 9 maggio, perché dopo diventa un'altra cosa, anche la memoria di Moro, lo statista, il martire, ma fino al 9 maggio si ha la sensazione che Aldo Moro sia diventato il nome di qualcos'altro. E allora di cos'è il nome Aldo Moro in quei 55 giorni? Moro si ritrova dentro tante prigioni, quella vera e propria, cioè lo stanzino ricavato nell'appartamento di via Montalcini 8 a Roma, la prigione del proprio passato e del proprio partito, perché se è lì è per via di quello, e poi la prigione più opprimente, quella della linea della fermezza, cioè la chiusura immediata ed ermetica a qualunque negoziato, posizione presa e difesa dalla DC, dal PC e dai grandi giornali, in primis la Giovane Repubblica, che proprio in quelle settimane comincia a diventare un giornale partito. Moro si dibatte e combatte per uscire da queste tre prigioni, di cui la peggiore è appunto la terza. La prigione della fermezza infatti è un dispositivo che impedisce a Moro di farsi ascoltare, che cambia segno alle sue parole, che genera dietrologie di ogni sorta. Di fatto Moro viene decretato incapace di intendere di volere, ergo le sue lettere non esprimono la sua volontà. Ora fuori il dramma di Moro viene colto, viene percepito dai più. Secondo noi moltissime persone, anche quelle che votano i partiti della fermezza, cioè la stragrande maggioranza di chi votava, e allora votava oltre il 90% degli aventi diritto, molte persone arrivano a identificarsi con questo nuovo Moro. Moro prigioniero, inascoltato, denigrato, impotente, abbandonato al suo destino dallo stesso potere di cui era un esponente di primissimo piano fino a pochi giorni prima. Voi siete gente che si occupa di cinema, ora come ci mostrano molto bene tante opere cinematografiche, ma anche prima ancora letterarie, andiamo dal Conte di Montecristo a Una poltrona per due, simpatizzare per chi subisce un rovescio della sorte viene spontaneo di chiunque si tratti, si simpatizza e si spera che riesca a vendicarsi. Se ci aggiungiamo quel che dice Jimmy in UFO 78, cioè che nelle storie di galera si tifa sempre per chi riesce a evadere, anche fosse una carogna, perfino un serial killer di bambine, come il personaggio interpretato da Steve Buscemi in Con Air. Se pensiamo a tutto questo, è davvero improbabile che l'inconscio degli italiani non si schieri per la liberazione di Moro. Ma il pensiero unico, improntato alla fermezza, non dà spazi per esprimersi in quel senso, a meno di non essere disposti a passare per fiancheggiatori del terrorismo. Il clima è opprimente, gli italiani e le italiane sono a loro volta dentro più prigioni, la prigione a cielo aperto dell'emergenza, la prigione di una logica di schieramento coatto da cui non si riuscirà a venire fuori per anni, da cui non si è ancora davvero venuti fuori, nemmeno oggi, è la prigione di un esito della vicenda che è già deciso, è scontato. Nel momento in cui tutto preme per farti schierare, o con lo Stato o con le BR, o di qua o di là, nessuna scappatoia dalla dicotomia, dall'alternativa infernale, è molto difficile dire ascoltatelo, provate a liberarlo, trattate. Allora si può forse dire che in quei 55 giorni Aldo Moro diventi il nome della prigionia degli italiani e del loro desiderio di evadere, però, attenzione, con pochissime speranze che questo possa avvenire. E quindi avete ragione entrambi, quel Moro avvistato in giro è un sogno, ma è anche già uno spettro. Bravo, cretino, Semo! Vortice. Se c'è la luna in cielo, io ti penso sotto il melo. A te vola il mio pensiero, mentre mi faccio un po' di nero. Tormenti proprio qui sul mio davanti. io ti amo, per favore scrivimi, non sorridermi ma lavati, per me esisti solo te. L'altra sera sul bidet io pensavo a te. UFO 78 dipinge e rievoca uno scenario che sembra lontano. Uno scenario con la S maiuscola che diventa un grande cantiere, grande e rumoroso, nel quale si prepara con efficienza incredibile l'Italia degli anni Ottanta. Scenario è infatti il titolo di una sorta di libretto rosso, anche se in realtà è azzurro, commissionato dalla Rizzoli allo scopo di programmare i piani editoriali per l'Italia che stava cambiando, o che doveva cambiare. Uno degli imperativi era quello di cambiare la linea del Corriere della Sera. Più in generale, la parola d'ordine doveva essere a tutti i costi disimpegno. Basta con la politica attiva, basta con la lotta armata. Ci vuole l'amore in prima pagina, a costo di pubblicare lettere manomesse di cornute e cornuti, per far sentire i lettori protagonisti, scusate, del giornale e delle storie. L'altra parola d'ordine era riflusso, bisognava allinearsi con l'età del narcisismo che stava cominciando in tutto l'Occidente, è vero, ma è altrettanto vero che a tutta questa storia ha contribuito la P2. Distruggerle, incenerirle, una volta incenerite non se ne parla più. È il miglior archivio che esista al mondo. Questo. Sì. Quando lei incenerisce qualcosa è la cosa sicura. E può dormire tranquilla, che è incenerita. È difficile leggere polvere bruciata, no? Certo. Oggi manca una realtà come la P2 negli anni Ottanta che possa arrivare fino a quel punto, secondo lei? No, si tratta di sapere organizzare. E non c'è nessuno in grado di saper organizzare un'azione di questo genere. No, secondo lei, se secondo lei il tempo può essere maturo. Ma d'altra parte c'era la Cinguetti, non cantava perché non aveva l'età. Io non faccio più nulla perché ho l'età. Perché se no altrimenti? Probabilmente. Lo scenario del riflusso, cioè del disinteresse per l'impegno politico e sociale, in favore di faccende e argomenti che attengono alla sfera privata, domestica e individuale, fu in effetti assecondato dai grandi organi di informazione in Italia, dalle riviste, dai mass media, e lo fu in maniera pianificata, come dimostra il libretto circolato all'interno del gruppo editoriale Rizzoli, la cui principale testata giornalistica, il Corriere della Sera, ospitava in ruoli importanti, fino a quello di direttore, uomini della loggia P2 di Licio Gelli. Questo non significa che quel passaggio d'epoca fu costruito a tavolino, creato dal nulla e imposto dall'alto. Negli Stati Uniti, dopo il 68, l'età del self, dell'individuo, del guardarsi l'ombelico allo specchio, era già cominciata. L'Italia era un'anomalia, caratterizzata da un lungo 68, un decennio di lotte che comprende buona parte degli anni 70. Giornali, televisioni, opinionisti a un certo punto fiutano l'aria, capiscono che l'onda sta arrivando anche qua e appunto la favoriscono per spingere più rapidamente il paese verso gli anni 80 dei paninari e della Milano da bere. Una delle prime avvisaglie di questa strategia nel maggio 78 fu proprio l'apparire di un UFO in prima pagina del Corriere della Sera, cioè nel luogo deputato alle notizie serie. Un oggetto volante avvistato da molti a Milano e ringraziato dall'articolista perché regalò alle persone qualche ora di spensieratezza nel clima plumbeo di quei giorni. Nel romanzo, attraverso i personaggi e la trama che abbiamo costruito, noi cerchiamo di contestare proprio quest'idea, cioè che lo sguardo rivolto al cielo, al fantastico, all'immaginario sia per forza uno sguardo sottratto alle questioni reali e materiali, all'impegno politico, che invece di quello sguardo ha estremo bisogno, come di un alleato prezioso e non certo di un nemico, una specie di pifferaio di Hamelin che distrae le persone con questioni frivole. Di quelle strane congiunzioni astrali, o per un gioco del destino, o una qualsiasi delle definizioni cosmetiche di quella cosa onnipotente che si chiama caso, ho aperto UFO 78 proprio poche ore dopo aver terminato la visione e la recensione di una docuserie intitolata Roma di Piombo, diario di una lotta. Diario di una guerra sarebbe stato più giusto, ma comunque si tratta di un buon prodotto nel quale sentiamo le voci sia dei carabinieri che dei brigatisti che ricostruiscono appunto la guerra. È un caso rarissimo di ricostruzione parzialmente onesta che, come sappiamo bene, è completamente assente invece nel cinema di finzione. Con quel periodo, con l'emergenza, con le leggi speciali, con quel che succedeva nelle carceri e nei tribunali, i conti non vuole e non ha mai voluto farli nessuno. Quindi sì, Roma di Piombo è una docuserie da vedere e l'ho apprezzata molto, però resta sempre quel perenne amaro in bocca, perché nel 2022 ancora non è possibile parlare chiaramente delle torture sistematiche alle quali furono sottoposti i brigatisti, reali o presunti, che poi furono solo una parte degli effetti delle leggi speciali. Tornando quindi al dio del caso, ecco che spunta subito dopo UFO 78. E lì, come capita spesso nei libri italiani piuttosto che nei film, trovo quello che cercavo, cioè una pagina sola ma molto molto pregna, diciamo così, di riferimenti a quello che succedeva dietro le porte chiuse. Questa storia finirà mai, questa eterna negazione? o è ormai talmente sedimentata nell'immaginario che qualsiasi ricostruzione, anche pubblica, anche su, che ne so, Rai 1 in prima serata, ormai sarebbe inutile? La memoria pubblica degli anni 70 è ancora prigioniera di fantasie di complotto, di narrazioni diversive messe a punto da vari pubblicisti e opinionisti, quasi tutti provenienti dal PC o da una certa magistratura molto vicina al PC. Come ogni fantasia di complotto, anche queste qui stabilizzano il sistema mentre dichiarano di combatterlo, attaccando presunti poteri occulti, secondi livelli, grandi vecchi e super clan che starebbero dietro la lotta armata, diffamano l'intera insorgenza sociale degli anni 70, riducendola al lavoro di infiltrati e delatori. E continuano anche a giustificare la repressione e l'emergenza di quegli anni come un dovere civico e democratico, emergenza che nel frattempo è divenuta un metodo di governance buono per tutte le stagioni e dunque emergenza eterna. Le Brigate Rosse e la lotta armata in genere sorsero spontaneamente dal tumulto sociale di fine anni 60, inizio 70, ebbero una loro agenda autonomamente decisa, fecero le loro scelte, i loro errori, anche le loro grandissime cazzate, fecero anche da soli la scelta di rapire Moro e decisero autonomamente come gestire il sequestro. Furono in tutto e per tutto dentro la temperie di quel periodo come soggettività autodiretta, autonoma. Prove che le BR fossero etero dirette dal servizio da potenze straniere attive anche nella gestione del sequestro Moro non ce ne sono, prove che i loro esponenti fossero degli infiltrati nemmeno. Chi sostiene ad avere le prove e ci bombarda di ricostruzioni paranoiche, che lo faccia con libri o con interventi in commissioni parlamentari, in realtà costruisce cattedrali barocche di dettagli gonfiati e di collegamenti arbitrari, nessuno dei quali ha mai avuto alcun riscontro serio. Aggiungo che spesso gli autori di queste ricostruzioni sono gli stessi che ai tempi appoggiarono il cosiddetto teorema Calogero, secondo cui le BR non erano altro che potere operaio che nel 73 non si era sciolto ma aveva solo fatto finta di sciogliersi, e Tony Negri era sia il capo delle BR sia il telefonista del caso Moro, cosa che oggi nessuno sosterrebbe più, non ne hanno mai azzeccata una. Ricostruzioni complottiste molto simili erano diffuse già prima, fan parte un po' del retaggio stalinista. Il PC disse che dietro la sollevazione giovanile del 77 c'erano i servizi, ma si sono affermate come discorso schiacciasassi nell'ambiente del PC, della stampa, virgolette, di sinistra e di certo giornalismo, virgolette, investigativo, in una determinata stagione, che è quella in cui il partito vide fallire la strategia della solidarietà nazionale, quindi del compromesso storico. Dal 78-79 il PC subì delle autentiche batoste elettorali e uscì dal governo Andreotti 4 e da lì in poi tornò a predicare l'alternativa al potere democratico cristiano. Però con quel potere democristiano c'era appena stato al governo, aveva appena gestito l'emergenza antiterrorismo nella sua fase più intensa. Ora, dopo che tornò a predicare l'alternativa, in quel frangente era necessario al PC dimostrare che era stato comunque necessario di sinistra appoggiare il governo Andreotti, e il fronte della fermezza e le leggi speciali e le carceri speciali, la caccia all'uomo e quant'altro. Perché dietro il sovversivismo diffuso c'erano poteri forti, servizi segreti, potenze estere, fascisti, eccetera. Per dimostrare questo, ed era necessario dimostrarlo, bisognava negare ogni vera autonomia, ogni agency alla lotta armata e per sineddoche a tutto il movimento radicale degli anni 70. Poi ho torto collo negli anni, nei decenni, hanno dovuto ammettere quello che prima negavano o sminuivano, cioè che intorno alla lotta armata c'era del consenso, che era un fenomeno sociale. Però una volta fatta questa concessione rimettono tutta l'enfasi su eterodirezioni, infiltrazioni e quant'altro. È una grande narrazione tossica e se non la si toglie di mezzo si continuerà a non capire nulla. Stai bene? E tu? Dove posso andare? video, però falla salire un po', ancora un po', non ce lo dite che c'è sotto? Col cavolo, c'è qualcosa, e tu sei l'unica persona al mondo in grado di riprendermi. Quella nuvola non si è mossa un cavolo di centimetro. Cioè avete visto un urto in quella nuvola? L'abbiamo visto. Sono arrabbiati e voglio l'attenzione. È sopra di noi. Non credo che ti prendano se non lo guardi. Sta arrivando. Non guardare. Non guardare, non guardare, non guardare. Piccola autopromozione, tra un paio di mesi forse, no, molto di più, uscirà il nostro secondo libro, che sarà un viaggio poco saggio, nel cinema black horror contemporaneo. Si chiamerà Black Fears Matter. E vi toccherà leggerlo, o quantomeno riceverlo, obbligatoriamente. Parlando con voi non ho potuto fare a meno di ripensare proprio a Nope, l'ultimo film di Jordan Peele, il regista che è praticamente la causa principale per cui abbiamo scritto il libro. E grazie a Nope abbiamo appreso che non è più conveniente l'appellativo di UFO. Eh no, adesso l'acronimo sdoganato dal Ministero della Difesa americano è WAP, che sembra napoletano ma purtroppo non lo è, sta per Unidentified Aerial Phenomenon. Fenomeno aereo non identificato. La parola fenomeno fa pensare a un evento di carattere naturale e toglie un po' quell'alone di mistero attorno all'oggetto volante. Lo rende quindi comunemente più accettabile, quindi meno attraente. Alla fine chi se ne frega di un WAP. È un invito implicito a tenere gli occhi bassi, quindi, che sembra collegarsi involontariamente al vostro discorso sulle suggestioni libertarie degli occhi rivolti all'insù. Poi tra l'altro l'UFO nel film colpisce soltanto chi osa guardare in alto verso questa struttura imponente. Quindi chi dice o pensa the sky is the limit. E ci sono molti fili rossi che collegano Nope a UFO 78. L'avete visto il film? Del termine Unidentified Aerial Phenomenon è appunto, come dicevi, fenomeno aereo non identificato, e l'acronimo produce la parola FANI, Fani. Via Fani è tristemente ricordata per essere il luogo dove le BR attaccarono l'auto di Aldo Moro, uccisero gli uomini della scorta e rapirono il presidente della Democrazia Cristiana. Insomma, sarà stato il caso, ma evidentemente un collegamento tra i Fani e via Fani era quantomeno nell'aria. A parte le casualità, credo che la ridefinizione del termine UFO in favore di WAP abbia sicuramente come effetto quello di demistificare il fenomeno stesso, di renderlo molto più piatto, diciamo, molto meno affascinante, qualcosa per cui valga molto meno la pena di alzare gli occhi verso il cielo. E certamente questo non è soltanto un modo appunto per invitare a guardare per terra, per invitare a tenere gli occhi bassi, ma è anche un modo per invitare a non mettere gli occhi laddove non si deve guardare, nel senso che penso che ormai il Pentagono, il comparto militare, industriale degli Stati Uniti e in generale del capitalismo occidentale si sia reso conto che davvero il cosmo è una frontiera, che lo spazio aereo oltre l'atmosfera, lo spazio dei satelliti è uno spazio da mettere a valore, è uno spazio da conquistare, sono lande dove piantare paletti come nel vecchio Far West, e penso quindi che questa rinnovata attenzione ai fenomeni aerei non identificati, compreso appunto il chiamarli con un termine più piatto, con un termine più scientifico, più accettabile per certi versi appunto anche dalle persone serie, faccia parte di una più generale strategia, magari non completamente concordata, ma che va nella direzione di utilizzare tutto, utilizzare anche i fenomeni aerei non identificati, anche gli ex UFO, per occuparsi in maniera il più possibile scientifica, ingegneristica, militare e produttiva del cosmo, della Via Lattea, degli spazi intergalattici e delle frontiere dell'universo. Fu anni che un guerriero dislocato ai confini dell'immaginario, difendendo l'alleanza tra la fantasia e il conflitto che muove la realtà. Nel 69 non è terrestre, vinse il premio Pancarella. Nel giro di pochi anni lo avrebbero vinto Andreotti, Scarpi, Panza, Bruno Vespa. Compagno Colosimo, ci manchi tanto, torna dal pianeta su cui ti trovi ora e scatena contro l'Italia un uragano di razzi cosmici. Mitologia d'altri mondi, ciclopi in America, veicoli spaziali graffiti nella roccia, Ulisse vagabondo nel tempo, atomiche laser, prima del diluvio. Da Odeon a Goldrake, dai programmi TV alla canzone Gianna performata per strada, fino alla caratterizzazione degli stessi ufologi che popolano il romanzo. Ci sembra un tratto che unisce i puntini del nazional popolare di cui parlava Pippo Baudo. È forse quello il linguaggio ideale per raccontare l'entropia del nostro paese? Hundred years, month and a day, zero, zero. In realtà sono tutte rappresentazioni molto strane del nazional popolare baudesco, che ricordiamolo non coincide col nazional popolare gramsciano, ma con il mainstream della cultura di massa. In Italia quando si dice nazional popolare si intende quella roba lì, la produzione media di grande successo. Fino a Gianna, Rino Gaetano non era particolarmente nazional popolare, lo diventa col Sanremo di quell'anno, in una fase tra l'altro in cui Sanremo è in grossa crisi e non fa più gli ascolti di una volta, non è più influente come una volta, e si riprenderà solo negli anni Ottanta, non a caso. E ci va con una canzone, Rino Gaetano, che se non fosse andata a Sanremo forse sarebbe rimasta nel novero di quegli inni dadaisti, pazzoidi di quegli anni, canzoni come Gelato Metropolitano di Camerini o A me mi piace vivere alla grande di Fanigliulo, canzoni che fanno parte di un'epoca ma che non furono grandi successi. Noi Gianna poi lo mostriamo cantato e suonato con la panza da un folle per strada. Quanto a Goldrake, è vero che diventa subito nazional popolare, però ben pochi ci avrebbero scommesso. Cartoni animati giapponesi con robottoni che ingaggiano scazzottate e battaglie furibonde nei cieli, ma proviamo a mandarli in onda, poi vedremo. Un successo del genere non era scontato, e tra l'altro Atlas UFO Robot entra in Italia in modo rocambolesco. È noto che quell'Atlas sta nel titolo per un buffo equivoco da parte di funzionari Rai che avevano ricevuto la serie e i relativi materiali dalla Francia, compreso una presentazione del prodotto, appunto un Atlas, un atlante della serie. Quanto ai nostri ufologi, i primi a restare sorpresi del fatto che gli UFO all'improvviso diventino nazional popolari sono proprio loro, in fondo, in un certo senso è quello che speravano, ma sotto sotto è anche quello che temevano. Questa ambivalenza credo che se la porti dentro più o meno chiunque faccia cultura. Questi riferimenti liminali a fenomeni che dai margini irrompono nel centro fanno parte della poetica del romanzo, sono le nostre angolature sghembe, i nostri tiri a effetto. Bene, non ci resta che ricordare l'appuntamento barese con Vubing 2. Mercoledì 7 dicembre ci vedremo alla libreria Zaum in via Cardassi alle 18. E poi 19.30 ci si sposta nella mediateca pugliese di via Zanardelli, dove sarà proiettato il documentario di Armin Ferrari, A noi rimane il mondo, sui sentieri della Vubing Foundation. Ringraziamo quindi Vubing 1, Vubing 2 e Vubing 4. Ci facciamo da soli, tra l'altro, i complimenti per aver evitato qualsiasi riferimento all'esito delle elezioni e al prossimo governo. Ci auguriamo però, e lo auguriamo a tutti, un autunno-inverno caldo, caldissimo e tanti, tantissimi sguardi all'insù. Ciao a tutti. Blessed is the grass and herb and the tree of corn and light.